Beh, tinte jazz, soul, funky, chi più ne ha più ne metta. Siamo, mi sa, nell'epoca d'oro del funky americano e qualcosa era arrivato anche nel Corno d'Africa. Eh sì, e poi la cosa secondo me più interessante di questa musica, insomma, moderna, che in quegli anni appunto prendeva anche piede anche in Somalia, poi vedremo anche in Etiopia, e che appunto comunque è sempre vissuta in chiave, come dire, locale. Vedremo anche dopo che addirittura ci sono stati degli esperimenti di jazz, anche di free jazz, che in realtà non si sono sviluppati in modo, come dire, autoctono, in modo indipendente da Ornette Coleman o da altre, insomma, simili esperienze. È come se i periodi erano talmente maturi, come diceva l'altra volta Antra, insomma, così di risveglio culturale, insomma, di ottimismo, anche soprattutto in quegli anni rispetto alla decolonizzazione appena avvenuta, no? Che in qualche modo un po' in varie parti del mondo, insomma, le persone si sono espresse attraverso dei linguaggi simili con delle, insomma, particolarità, insomma, relative proprio a dove vivevano, la propria tradizione musicale. E appunto questo lo sentiamo molto bene, è stato documentato in Etiopia, cioè, insomma, non tanto in Etiopia, però riguardo alla musica dell'Etiopia, che sappiamo, l'Etiopia è un paese molto, anche questo molto grande, che ha avuto una storia molto importante, e praticamente anche qui però questa tradizione musicale, sia moderna sia, diciamo, passata, ha avuto una documentazione di registrazioni che sono state un po' riportate alla luce da una piccola etichetta discografica francese che si chiama Bouddha Musique, che è specializzata in musiche tradizionali, musiche dal mondo, insomma, un catalogo piuttosto vasto che va dalle ricerche sul campo alle registrazioni di concerti, appunto alla documentazione storica, e appunto ha proprio fatto una collana, che è il primo disco uscito nel 1997, che si chiama appunto Ethiopique. E sono uscite tutta una serie di dischi dal 97 a oggi, che documentano tutte quelle che sono gli aspetti, insomma, della musica in Etiopia, a partire appunto, come nel caso della musica somola, da questa rinascita e da questo fermento culturale che tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 70 ha interessato appunto anche l'Etiopia. E andiamo a sentire proprio un brano che è dal primo disco di questa serie di raccolte. Thank you. E questa era Teseta, che è proprio una canzone di quelle, insomma, un po' simbolo di questo movimento culturale, insomma, che ha avuto vari interpreti, insomma, appunto stiamo parlando dell'Etiopia di fine anni 60, prima metà degli anni 70, in questi dischi, appunto, che sono usciti dal 1997 in poi per questa piccola etichetta discografica francese, e che hanno contribuito molto a far conoscere questa scena musicale etiope, che comunque ricordiamo di personaggi di cui diversi sono ancora viventi o sono morti da poco tempo, perché comunque persone nate, insomma, tra gli fine anni 30 e l'età degli anni 40, alcuni sono ancora in attività, e poi andremo a ascoltarli. Intanto abbiamo un prossimo ascolto, che è appunto questa canzone di Irut Begele, e andiamo a sentirla. Forse l'esponente più importante di questa scena, insomma, anche se soprattutto anche considerato un po' il, come dire, il, quello che ha iniziato questo tipo di musica che viene un po' categorizzata come etno jazz africano, è Mulato Astat, che poi in realtà lui è cresciuto di classe 1943, è cresciuto in Inghilterra, e poi è stato il primo africano ammesso alla Berklee College of Music di Boston, quindi poi è cresciuto musicalmente e artisticamente negli Stati Uniti, per poi tornare in Etiopia, dove appunto ha anche registrato le registrazioni che sono state comprese nel quarto disco di questa serie di Etiopic, appunto, poi che adesso poi vi faremo sentire un brano. E che dire di Mulato Astate, è stato più volte a suonare anche qui da noi, insomma. È venuto al Duse, mi sa, 3 anni fa, ma mi sa che molti dei nostri ascoltatori lo conoscono grazie a un film hollywoodiano per modo di dire, un film americano, Broken Flowers di Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, certo, che appunto lo aveva conosciuto e appunto gli ha proposto di fare le musiche per questo film, insomma, e quello sicuramente gli ha dato una grande conoscenza e comunque... Hanno rilanciato a livello mondiale, ha riscoperto quel film due fenomeni, Mulatu e gli Sleep, che erano un gruppo stoner degli anni 90 completamente caduto nel dimenticatoio. Grande Jim Jarmusch. Direi di sì, che il cinema serve anche giustamente per queste cose. Comunque andiamo a ascoltarci intanto questo brano di Mulatu che si chiama Yekemo Sev. Thank you. Vladimiro, mi sa che hai azzeccato proprio il brano contenuto in Broken Flowers di Jim Jarmusch, se non vado errato. Ascoltatori e ascoltatrici, potete sempre correggerci, ve lo ricordo. Abbiamo un numero 348-76-49-289, potete sempre dirci cosa ne pensate e soprattutto correggerci. Io l'ho preso dalla raccolta e per scegliere un brano ho scelto questo, mi sembrava quello più interessante, però non escludo che fosse qualcosa che già nel mio orecchio era familiare, insomma. Comunque è interessante vedere proprio quello che dice anche Mulatto in alcune interviste, che lui insomma ha voluto conciliare la sua tradizione, la tradizione musicale etiope basata su questa pentatonia e mischiata. Lui dice: ho voluto mettere insieme la pentatonia tradizionale etiope insieme ai 12 suoni della scala occidentale, insomma, in qualche modo nella sua prospettiva musicale c'è questa combinazione tra elementi occidentali, elementi autoctoni, insomma, che è importante, insomma. E vi dicevamo prima appunto anche del fatto che molti di questi esponenti di questa scena etno jazz, chiamiamola così volendo, etiope, non solo appunto hanno trovato una loro strada parallela a volte a alcune esperienze occidentali contemporanee, e uno di questi, un esponente anche lui riscoperto appunto un po' di recente attraverso la mediazione, diciamo così, di un gruppo musicale occidentale che suona musica molto differente, il gruppo degli Ex, che sono olandesi, e appunto devo leggere il nome perché è difficile, Getachew Mekuria. Sembra dialetto. Questo sassofonista che appunto nel 2006 ha fatto poi questo disco con gli Ex che si chiama Moambessa, di cui andiamo a sentire un brano, e anche lui è stato più di una volta a Bologna, e appunto lui è considerato una specie di autore di una specie di free jazz etiope del tutto originale, insomma, senza che lui abbia poi in realtà ascoltato Ornette Coleman, ne sia stato influenzato. Negli stessi anni concepiva un tipo di espressione musicale che ha degli aspetti molto, molto simili. Thank you. 22:04 minuti primi in questo momento. Chissà se questi suoni negli anni 70 riuscivano ad uscire dai confini del Corno d'Africa. In realtà pare proprio di no, perché poi in realtà per esempio il prossimo musicista che andiamo a ascoltare, Ahmed Mahmoud, che fece due dischi in quegli anni, ricordiamo che queste sono registrazioni, sono state recuperate da 97 in avanti, non erano tante le registrazioni appunto come dischi, insomma, cioè, stiamo parlando di molti 45 giri, alcune decine 45 giri, alcuni LP. Ecco, lui appunto questi due LP che sono stati ristampati, in realtà lui è stato il primo musicista etiope a riuscire a pubblicare all'estero. Infatti il suo primo disco venne pubblicato a Bruxelles nel 1986 e fu il primo disco di musica etiope moderna conosciuto all'estero. Precedentemente, quindi al 1986, questi musicisti erano sconosciuti al di là. Dopo 10-15 anni e più del fenomeno, dal esatto. Boom del fenomeno musicale. Esatto. E andiamo quindi a sentirci questo brano di Ahmed Mahmoud, che comunque sentiamo è un bel po' diverso da quello che abbiamo ascoltato di Astat e di Mekudia. Lelituna altegna away che noi mesciling l'elite un'altegna away che noi mesciling li kinde bunasus uli uli yalen nela soalisha mi bemulu hiotin nela soalisha mi bemulu hiotin canci che mi leyen emerta le motin almas menedane Sempre, siamo sempre su Ethno Chic, abbiamo appunto ascoltato qui abbiamo ascoltato Ahmed Mahmoud, che è appunto questo musicista, è stato il primo musicista etiope a incidere al di fuori per un'etichetta discografica al di fuori dell'Etiopia e farsi conoscere nel 1986. E invece stiamo appunto sentendo vari esempi da questa raccolta di 30 dischi che 30? Sì, per adesso sono 30 CD e che è appunto l'ultimo uscito l'anno scorso, che documentano non solo la tradizione moderna, diciamo, di questo fine anni 60-70 della musica etiope, presa nel largo spettro, quindi comprendente anche la musica fino appunto all'Eritrea, ma anche poi, ve le vedremo dopo, anche proprio musiche tradizionali di ricerca sul campo. Addirittura hanno fatto un disco, per esempio, per celebrare il centenario della prima registrazione fatta di musica etiope, risalente al 1910. Quindi nel 2010 hanno fatto un disco che riprendevano queste musiche che erano state registrate da un'equipe dell'Istituto di Berlino di Studi Comparati, che appunto è stato il primo archivio del mondo appunto di quella che allora si chiamava musicologia comparata e che poi è diventata insomma l'etnomusicologia. Con i tamburi a cera. Esatto, sui cilindri per il fonografo, esatto, che sono in realtà sono registrazioni proprio inascoltabili perché si sente più il gracchiare del fonografo e poi duravano pochissimo ed erano molto fragili. Era lo-fi. Esatto. Non perché fosse una cosa ricercata, ma perché era il massimo esatto. Disponibile ed portabile. E adesso proprio andiamo a ascoltare delle registrazioni di musica tigrina, sempre moderna, sempre per questi gruppi di bande, eccetera. Molte di queste bande erano per esempio legate alla polizia o all'esercito, perché in quegli anni insomma erano un po' le palestre per suonare, le occasioni per suonare erano soprattutto quel tipo di situazione, insomma. E in questo caso ascoltiamo due registrazioni di musica tigrina, che appunto sono dal disco, pare che sia dal volume, non ce l'ho sotto mano. Comunque, insomma, è musica dal nord Etiopia e dall'Eritrea. Nice motto, the bossy, nine of my day, Abbasid. نسترات حب حبوم برحصات نابيوم بدحرية وقدر الخيبوم تريفوهم تدغليتوم بيوم سدرا بيتك ابي يوم كم قبرخي اي كدوان بدحرخي Quindi questa era appunto una panoramica su questa musica appunto tigrina, che appunto interessa un po', stiamo arrivando poi, stiamo andando un po' a nord. Ma non se ne parla tanto, non è molto conosciuta la musica dell'Eritrea. No, ma nessuna di queste musiche, appunto dicevo prima Babe, Fuori Onda, che appunto anche dei libri che parlano di musica di africana, ci si sofferma molto sulla tradizione dell'Africa dell'Ovest e... oppure si arriva al Sudafrica, ma tutta questa tradizione musicale, scena musicale invece dell'Est, che è così importante, come dicevamo l'altra volta, anche un incrocio di culture tra Oriente e Occidente, fino dall'India, fino appunto alla musica araba, insomma, tradizioni poi così assolutamente sconosciuta, assolutamente ignorata. È una tradizione, come diciamo, molto molto antica, e quindi... voi, se pensiamo solo alla civiltà dell'antico Egitto, beh, una civiltà che è arrivata fino a qua, e qui poi aveva un po', ha preso anche, ci sono state tradizioni di regni e di civiltà per secoli, civiltà che poi insomma hanno anche assimilato a qualcosa della cultura cristiana, sviluppando una forma di cristianesimo, adesso definita come cristianesimo copto, è affiliata alla Chiesa ortodossa. E quindi in qualche modo, sia dal punto religioso che culturale, insomma sotto tutti gli aspetti, non ci sono state cesure importanti, insomma, la tradizione dell'Etiopia, però tant'è che insomma che musicalmente appunto sì, si sono interessati alcuni studiosi, alcuni etnomusicologi, alcuni appunto, ma tutto sommato, a parte appunto alcune riscoperte, è rimasta abbastanza ai margini. E parlando appunto di queste tradizioni molto antiche, appunto ci sono molti strumenti a corde, appunto come le varie arpe, strumenti a pizzico, insomma, che risalgono appunto a millenni fa, insomma all'epoca appunto delle grandi civiltà. E, per esempio, questa musica che andiamo a sentire, sempre dalla serie Etiopic, sono delle registrazioni che ha fatto un ricercatore italiano, Enrico Castelli, nella zona verso il Sudan, dell'etnia Conso, e andiamo a sentire appunto un brano strumentale e sentiamo. Sembra quasi di ascoltare Matt Rock, mi ricordano gli Storm and Stress. Eh sì, è sicuramente molto interessante. Restiamo sempre, restando sempre in questo tipo di musica, insomma, sempre in questa zona tra confini tra appunto l'Eritrea e il Sudan. Ascoltiamo questa musica con voci maschili, con arpa, di Cantastorie Girovaghi, insomma, un po' quasi a chiudere questa puntata col concetto che comunque la musica non possiamo rinchiuderà dentro dei confini, ma appunto le persone si spostano e meno male che grazie anche alla musica, ai musicisti che appunto non solo che si muovono, come appunto questi Cantastorie, queste tradizioni musicali si viaggiano, insomma. E andiamo a sentire questi due piccoli esempi da un disco un pochino più antico di registrazioni proprio sul campo. Yeah. Beh, qua si sente che sono, che siamo in mezzo ai villaggi. Della campagna, altra parte è così, insomma, giustamente. Abbiamo cercato di vedere un po' tutti i vari ambienti e tutti i tipi di stili musicali, insomma, di, che possiamo ritrovare, insomma. Sicuramente questa raccolta etiopica è un riferimento. Se volete approfondire potete andare sul sito della Buddha Music, insomma, andare un po' di ascolti, insomma, così. Vi consigliamo di fare un po' di ricerche anche sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordiamo che abbiamo una pagina Facebook, Ethnochic _ RCDC, che sarebbe per Radio Città del Capo. Potete trovare anche, insomma, qualche link. Per esempio, oggi ho messo un link a un disco vinile di musica etiope, appunto, degli anni, registrazioni degli anni 50 di orchestre, di musica. E vi lasciamo con una canzone etiope, sempre a questa raccolta, di Melies Moulouken. E vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì. Buonanotte a tutti e buon ascolto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città del Capo. Ciao, buonanotte. Gisva. Lübette Cemata, Samba in Tarkafe. Mendovare ragagni, Yedette Cinafe. Anci si trecce, Venite in frappe. Venite in frappe. Network.